crazy, folks in crazy, folks in crazy, folks in King Buster. La vita è una lunga posizione, malincuore, andiamo sempre avanti e indietro come treni alla stazione. Ma che delusione se ti rendi conto di quanto è difficile avere una posizione dentro sta nazione. Tu prendi me, studente delle superiori, che non studio anche se so che la scuola mi serve. Se ci penso un attimo poi perdo le ragioni, che se fossi diplomato non farei comunque niente. Manco se fossi bravo in chimica, in diritto 18 anni già vi parlo di politica. Sembrerebbe semplice fra sbattersene il cazzo, ma la gente che mi vive attorno non si sente libera. No. Ideali chiusi da manette e corruzioni, voi ci date le istruzioni ma quelle che vi convengono. L'anarchia soccomberà su tutte le regioni, come fosse religione tutti quanti si convertono. Destra, sinistra, sinistra, destra, quante voglio la tua testa dentro l'una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, quante voglio la tua testa dentro l'una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, quante voglio la tua testa dentro l'una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, quante voglio la tua testa. Vengo da un paese che si chiama Italia. Qui i bambini crescono con la badante, mica con la balia. Vendono i titoli di stato su Grupalia. Ma noi italiani ci va bene, basta l'ora d'aria. E varia quest'ora d'aria. Il problema è che quando respiri ti becchi la malaria. Continuiamo così finché non ci mancherà l'aria, oppure emigriamo a Londra o in Australia. Bancarotta fraudolenta, mi consenta, la paura ci tormenta di un futuro che spaventa. Le loro cinture si allargano, le nostre sempre più strette. Noi pigliamo le mazzate, loro le mazzette. Società offshore oppure SPA, tutto in trattativa fra lo Stato e la mafia. Non ditemi che questo state in questo stato. Sì vabbè, pepino impastato. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa dentro ad una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa dentro ad una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa dentro ad una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa dentro ad una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa dentro ad una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa dentro ad una cesta. Destra, sinistra, sinistra, destra, gigante voglio la tua testa. Crazy.